Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Lo so che se mi metto a parlare di corsa, di jogging o di running, pensate di aver sbagliato radio. No, non avete sbagliato radio, non sono quello che parla di corsa tutti i giorni. Sempre Radio 24, sempre voi siete qui e continuiamo a raccontare storie. La storia di oggi fa parte di un filone di racconti che a voi siete qui, @radio24.it, continuano ad arrivare. A proposito, avete tutta l'estate libera per continuare a mandare le vostre storie, ovviamente, perché continuiamo a raccoglierle. Quindi mi basta che mi raccontiate un piccolo episodio della vostra vita, piccolo o grande, basta che sia in una pagina circa, non di più. Arriviamo a due anche volendo. Voi siete qui, @radio24.it, e quelle storie diventano una puntata e ogni puntata è dedicata a un episodio e ad una persona diversa. In questo mese di luglio stiamo facendo una cosa diversa, che è mettere insieme due storie seguendo un unico filone. Il filone di oggi, della puntata di oggi, 9 di luglio, è il filone che ha a che fare con la corsa. Però state lì, non parliamo di metodi di allenamento, parliamo, e lo so che siete anche stufi delle metafore sportive, però parliamo di pezzi di vita, parliamo di storie di persone che hanno a che fare con le corse, col correre, con le gare anche, ma in realtà raccontano qualcosa di più. È il caso sia della prima sia della seconda storia. La storia di Daniele, cioè la prima che sto per raccontarvi e che lui stesso ha intitolato il primo traguardo personale, racconta di come uno possa partire quasi per caso a fare delle cose, perché c'è chi lo coinvolge, immagina di potercela fare molto facilmente e poi quando si trova a dover superare quella prova si accorge che di facile non c'era veramente nulla. Eppure lì, proprio come in un grande viaggio dell'eroe, incontra qualcuno che gli dice: tu stai tranquillo, ti porto io al traguardo. E questa appunto è la storia di Daniele. Nella seconda storia invece si parla di un'altra cosa, si parla di quel segno che si fa con le dita quando si è arrivati vicinissimo al traguardo e non lo si è raggiunto. Infatti si intitola A tanto così. La storia che voglio raccontare risale ormai all'anno 2003, precisamente il 23 di marzo. In quel giorno il sole splendeva come non mai, la temperatura era sopra la media stagionale e io mi apprestavo ad intraprendere quella che per me sarebbe stata la prima scommessa su me stesso. Un'avventura nata per caso, ma partiamo con ordine. Nell'estate del 2002, l'anno prima, lavoravo presso un centro sportivo di tennis come palleggiatore, o, come di norma viene chiamato nella maggior parte dei posti, sparring partner. Durante le ore di buco mi capitava di andare a correre con la persona che gestiva la palestra del centro sportivo. Corsa su corsa, vedendo in me una specie di predisposizione, mi propose di andare la domenica al campo di atletica, dove alcuni suoi amici si ritrovano la mattina per correre. Le prime volte non accettai. Poi, una domenica mi decisi. Allacciai le scarpe, misi in moto la 50 Special e puntai verso il campo di atletica. Con sorpresa trovai un gruppo di persone fantastico, socievole, che da lì a poco mi confessarono stavano preparando la gara per andare alla Maratona di Roma. Io all'epoca ero ignaro di cosa fosse una maratona. Sì, ne avevo sentito parlare, vedevo alla TV le Olimpiadi, ma mai mi ero documentato e mai mi era passato per la mente cosa volesse dire fare una maratona. Ricordo che eravamo verso i primi di novembre. Accettai di partecipare con loro a Roma anche grazie al fatto che un mio amico che correva nel gruppo mi confessò che anche lui era la sua prima esperienza e che alla fine, con una minima preparazione, si può raggiungere il risultato atteso. Del correre mi piace soprattutto la sensazione del vento sulla pelle, sia in estate che in inverno, soprattutto in inverno col freddo che si sente proprio pungente. Questo è quello che amo, insomma, anche della corsa. Passano i giorni, passano i chilometri. Ero arrivato a pesare 69 kg contro gli attuali 78. Tenete presente che sono alto 1,82 m. Facevamo allenamenti di 14-17 km il lunedì, mercoledì e venerdì. Poi la domenica facevamo circa 20-25 km. Arrivato a metà febbraio, mancando poco più di un mese alla maratona, era giunto il momento di effettuare l'attesissimo lungo. Il lungo consisteva nell'effettuare più chilometri possibili per testare il livello di allenamento e preparare il fisico a sostenere i 42 km e 195 metri finali. La maggior parte dei maratoneti riesce a fare il fantomatico lungo percorrendo tutta la distanza della maratona e qualcosa di più. Io, nel mio tentativo, arrivai a percorrere 32 km. al termine dei quali vi confesso che mi sentivo più morto che vivo. Le gambe erano completamente inchiodate a terra, la pelle completamente asciutta, ma soprattutto psicologicamente distrutto. Quel giorno capii che fare la maratona non è uno scherzo, o quantomeno non si può improvvisare. Completamente abbattuto pensai seriamente di abbandonare l'evento. Insomma, fino a che un signore di ben 62 anni mi disse: Daniele, stai tranquillo, la maratona la farai assieme a me e ti porterò fino al traguardo. Il fantomatico signore aveva al suo attivo ben 110 maratone, due corse della 100 km del passatore e altro. E quindi chi meglio di lui mi poteva dare conforto e coraggio? Pieno di gioia e speranza, arrivo al tanto atteso 23 di marzo. Ripeto come all'inizio, domenica stupenda, un sole brillante, una temperatura a dir poco gradevole, ma soprattutto una compagnia piena di risate. Siamo in 50.000 lungo la via dei Fori Imperiali. Il calore che si percepisce è indescrivibile. Ogni corridore è ansioso di partire. La tensione è alta, anche se la nostra gara è puramente amatoriale. Ma la lunga preparazione, a mio avviso, porta a questo tipo di sensazioni. Ci siamo. In lontananza sentiamo i primi corridori partire. Come ogni maratona che si rispetti, i primi a partire sono gli atleti professionisti, che sono divisi da quelli amatoriali in modo da poter correre la gara senza essere disturbati e avere tutta la strada libera davanti a loro. Dopo circa 20 minuti dallo sparo, riusciamo ad arrivare sotto la partenza. Per noi la maratona inizia adesso. I punti di ristoro erano cadenzati ogni 5 km, mentre ogni 2 km e mezzo era possibile prendere delle spugnette umide per rinfrescarsi testa, collo e viso. Arrivati al 33esimo chilometro, il mio fedele compagno di avventura mi pronuncia la seguente frase che mai riuscirò a togliermi dalla mente: Daniele, sei riuscito a finire la maratona. Ci vediamo all'arrivo. Con questa frase in testa inizio a percorrere le prime centinaia di metri, ripetendomi dentro di me che ero arrivato alla fine. A ogni passo però la mia mente, pur ripetendo incessantemente quella frase «Daniele, sei riuscito a finire la maratona, ci vediamo all'arrivo», iniziava a percepire altre sensazioni. La meta che mi sembrava tanto vicina, in realtà la vedevo lontanissima. Ma mi hanno detto che mancavano 10 chilometri, perché secondo loro che questa persona aveva fatto 110 maratone... ormai era finita, ma per me alla prima esperienza in realtà era un muro talmente ancora altissimo da valicare che mi sono sentito proprio spiazzato. Iniziai a fare il conto alla rovescia, cosa che ripensando a mente fredda è assolutamente da evitare per chi percorre gli ultimi chilometri di una maratona. Arrivo al 34esimo chilometro con una stanchezza mentale enorme, ma soprattutto vedo davanti a me persone che iniziano ad avere i crampi in ogni parte del corpo. Una ragazza si ferma di blocco e cade a terra. La paura di incappare in questo tipo di problemi inizia ad assillarmi. Comincio ad avere fame, ma il ristoro è alla distanza di un chilometro. Cosa sarà mai un chilometro per noi che durante la settimana percorriamo la bellezza di 15-17 chilometri? Beh, credetemi, in quel momento anche un metro era una distanza abissale. Con tutte le ultime forze che mi erano rimaste riesco ad arrivare al 35esimo chilometro. Lascio stare le bevande e mi dirigo verso il ristoro alimentare. Davanti ai miei occhi vedo una distesa di spicchi di mela già pronti. Ne prendo una manciata con entrambe le mani e riparto piano piano. La mela è uno dei miei frutti preferiti, ma credetemi, quando ho mangiato il primo spicchio, beh, non ho mai più sentito un sapore così buono in tutta la mia vita. Mi sembrava di mangiare l'oro. La mela aveva un sapore che da quel giorno non sono più riuscito a provare. Comunque mi incammino verso il 36esimo chilometro. La cosa che ha pesato molto sulla mia psiche è stato il fatto che i chilometri che andavano dal 35esimo al 40esimo erano ricavati su una strada rettilinea divisa in due corsie, dove quelli che iniziavano al 35esimo chilometro vedevano dal lato opposto gli altri entrare nel 40esimo. E parlando poi con altri corridori mi sono reso conto che quella parte del tracciato è stata fatale a molti, non solo a me. Insomma, con le unghie e coi denti riesco ad arrivare al 40° chilometro. Entrandoci ho veramente realizzato di aver raggiunto la mia meta. Percorro il 41° chilometro con una felicità e una gioia interiore che non so descrivere a parole. Era una sensazione interna che mai avevo provato fino a quel momento. Sentivo di aver raggiunto e superato i miei limiti psicofisici. Gli ultimi 195 metri sono stati una liberazione. Il tempo del cronometro sopra il traguardo segna 4 ore e 21 minuti e qualche secondo. In realtà poi il tempo effettivo risulterà essere 3 ore e 58 minuti e qualche secondo. Appena passato il traguardo ho sentito un brivido percorrermi tutto il corpo, una sensazione di rilassatezza e di calma. Camminando a pochi metri dopo il traguardo mi vedo avvicinare una ragazza con in mano una medaglia di bronzo. Mi ferma e con voce soddisfatta mi dice: complimenti, ti sei meritato questo trofeo. Abbiamo vinto! Abbiamo vinto l'oro con Molfetta e un argento. E poi ringrazio tutti quelli che mi scrivono. Se ci sono cose che non sai, lascia stare. Questo potrebbe essere un messaggio riassuntivo di mia mamma, eh? Ma io dico: mamma, però io tutti i giorni c'ho 45 minuti da riempire. Ho capito, ma se ci sono delle cose che non sai, lascia stare. Lo dice a mia mamma e Tiziano mi suggerisce, anche Wittgenstein lo diceva. Per cui, mamma, guarda, David, che siete già in due a dirmelo, più tutti quelli che me lo stanno dicendo adesso in diretta. Si parla di traguardi personali, anzi, perdonatemi, del primo traguardo personale della vostra vita. Ciao, nel 97 ho fatto maratona a Venezia, 3 ore 19 senza avere mai fatto più di 25 km di corsa. Fantastico, per un mese mi pareva di essere invincibile. Questa cosa proprio volevo chiedere a Daniele, se quella sensazione lì, quella che hai raggiunto un traguardo così grande, ti fa davvero sentire invincibile. Pronto Daniele? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Dove sei adesso Daniele? Sono a casa. A casa, ci ricordi? Ho l'influenza quindi sono in convalescenza. Cioè, hai avuto proprio la febbre? Sì, ho avuto la febbre. Ma è quella che prende l'intestino o che prende la gola? Beh, guarda, ne parliamo poi con Nicoletta. No, la gola. Una roba generica. Senti Daniele, dimmi la sensazione di invincibilità che si prova dopo aver affrontato una prova come quella. No, effettivamente quella sensazione è vera. A me mi ha dato, cioè, mi ha dato una botta di autostima incredibile, ecco. Insomma, ti senti un po' invincibile. Poi diventi un po' uno psicologo di te stesso in quei momenti in cui proprio sei all'estremo, ecco. Però insomma, effettivamente è vero. Il tutto succedeva la prima, insomma, maratona, quanti anni fa? Ma io nel 2003, la prima... 10 anni fa. Fatto. Sì, 10 anni fa. Ecco, perché esatto, questo volevo capire. Tu non sei un maratoneta di quello che poi comincia e non si ferma più, giusto? Ne hai fatta una di fatto. Sì, ne ho fatta una perché è stata così per caso, quindi è capitato tutto per caso. Correvo, ma facevo piccole distanze, 7-8 chilometri. Poi con questo gruppo mi sono un po' appassionato e mi hanno fatto provare le prezze di questi 42 chilometri, 195 metri. Continuo a non capire il motivo per cui questa sorta di mentore, questo signore di 62 anni che aveva la 100 chilometri del passatore alle spalle, maratone, a oltre 10 chilometri dal traguardo ti ha detto: oh Daniele, ce l'hai fatta. A me sembra un po' una carognata, nel senso che ti manca quasi, non dico metà gara, ma un quarto di gara ti manca. Ma sì, manca ancora un quarto di gara, però lui effettivamente 110 maratone, insomma, sarebbe bevuto in un bicchiere d'acqua, come si dice. E certo, per lui era normale, insomma, finire gli ultimi 10 chilometri, però è anche andato con un ritmo molto più lento del suo. Diciamo, no, però io capisco che ci possa essere l'intenzione da parte sua di dire, in un momento difficile, no? Di dire: dai, ormai ce l'hai fatta, il resto è solo abbrivio. Però in realtà a te è successo esattamente il contrario, cioè hai cominciato a fare il temuto conto alla rovescia. E lo so, infatti è stato un po' quello il disastro, però a quanto ho capito succede a tutti questa cosa, che no, o quantomeno la maggior parte. Sì, una cosa che dicono i maratoneti. La maratona inizia dal 33esimo, 34esimo chilometro. Ecco. Una cosa che dicono spesso i maratoneti è che la crisi arriva sempre, prima o poi, sì. E devi trovare il modo per affrontarla. Forse se non fossi stato solo, ecco, non l'avrei mai avuta la crisi, però insomma è andata così. Ma meglio anche così, almeno ho conosciuto un po' anche di più me stesso. Ho fatto lo psicologo di me stesso. Che lavoro fai tu, Daniele? Io sono ingegnere. Ok, quindi diciamo, nel secondo luogo comune è la cosa più lontana dallo psicologo, poi in realtà non è così vero, però insomma fai un lavoro tecnico, che tipo di lavoro fai? Lavoro per un'azienda, si fa per ingegneria di processo, lavoriamo nel settore di PLC, DCS, insomma roba... Fantastico, non ci ho capito niente di quello che hai detto, PLC, DCS, dimmi cosa fai, fai dei calcoli, no? Sì, tipo programmazione, ma anche installazioni hardware, che sono praticamente questi DCS, che è un sistema a controllo distribuito, che ci permette magari di azionare valvole, controllare livelli, temperature. Mi dici l'esito finale di tutto questo lavoro, cioè che cosa succede? Si creano dei dolci, si fanno delle pasta? L'esito finale, dove lavoro adesso, lavoro in impianto di raffinazione, quindi benzina ci permette petrolio di andare al lavoro e usare la macchina, motorini. Ok, perfetto. E la corrente. Daniele, una corsa in previsione per i prossimi mesi? No, se non una corsetta defaticante, mi sembra di capire. Ma sì, vado sempre con amici, vado. Per ora, insomma, previsione di maratone no, poi magari in futuro chissà. Ci vuole tempo, ecco, quello che manca un po'. Daniele, ti ringrazio, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te. Siete qui. Provate a tornare indietro nel tempo con la mente. Se siete dei patiti di calcio, ma anche no, perché alla fine in realtà i mondiali sono un po' il calcio di tutti, no? Non sono il campionato, la Champions League o l'Europa League, peggio ancora. I mondiali di calcio appartengono al costume più che allo sport. E allora tornate a quella partita in cui Roberto Baggio sta per fare un gol che avrebbe ribaltato le sorti di una partita, probabilmente di un campionato del mondo. Tira un destro in diagonale incredibile che arriva a tanto così dal palo. E si vede lui proprio inquadrato che fa così con le dita, come dire, ma tanto così più in là, ed era dentro. Ecco, la storia che sto per raccontarvi oggi in questa seconda parte, la storia di Luigi, parla di corsa, ma si intitola di fatto A tanto così, e racconta di come uno ce la metta tutta, sia anche quasi convinto di avercela fatta, e invece delle volte basta tanto così per non arrivarci. Tutto nasce da un amore. La mia ex ragazza non mi dice nulla, ma alla mia richiesta di uscire un sabato sera risponde timidamente di no, perché l'indomani mattina partirà presto per andare ad una garetta podistica. Io mi faccio fregare un paio di volte, alla terza la seguo. Vado a letto presto e mi presento anch'io alla gara podistica. Decimo posto e tempo lusinghiero per un neocorridore della domenica. A nulla era servita la partecipazione di mio padre alle Olimpiadi di Città del Messico del 68 e di Monaco 72 per convincermi che era l'atletica la mia cosa. Mio padre Gianni Del Buono è stato un olimpionico, quindi un atleta di altissimo livello, livello internazionale, è partito da zero senza avere particolari caratteristiche fisiche. Da lì è arrivato fino a partecipare a due Olimpiadi, Monaco 72 e Messico 68. Papà mi aveva portato sin da bambino al campo, ma io scelsi il calcio. E arrivato al momento in cui c'era da fare sul serio, mi rispedirono dalla squadra primavera della mia città, Ancona, a una squadra di prima categoria. Il sogno calcistico era infranto, ma questo nuovo stimolo stava affacciandosi nella mia vita.